E il cavaliere cadetto versò un nappo pieno allo scudiere Leopold e glielo porse, mentre ciascheduno che ivi era beveva nel suo. E lo scudiere Leopold alzò la visiera, onde compiacergli, e gustò manifestamente del beveraggio a prova d'amicizia, dapoiché egli mai non bevea niuna sorta di idromele, e tosto miselo da parte, e non a guari in gran segreto. La maggior parte ne versò nel bicchiere del vicino, né il vicino s'avvide di quell'astuzia. Ed ei s'assise seco loro in quel maniero, onde posare alcun tempo colà. Lodato sia Iddio onnipotente. Per lo intanto, quella buona sorella si fece alla porta e pregavagli, per l'amor di Gesù nostro Signore sovrano, di por fine al loro bevazzare, poiché era vi sopra una in doglia di parto, una gentil dama, la cui ora era prossima. Sire Leopold udì alto strido al piano superno e domandossi qual strido fosse mai, se d'infante o di femmina. E, isbigottisco, dicea tra sé, che la cosa non sia già fornita. Parmi che troppo duri. Di ciò addatosi e veduto un uomo franco che nomavasi Lenean dall'istessa parte della tavola, che più carco era d'anni d'ogni altro, ed essendo amendue virtuosi cavalieri nella stessa intrapresa, e similmente perché era de due il più annoso, così favellò con grande cortesia. Orbene, diss'egli, infra non molto tempo essa sarà sgravata per la bontà di Dio e molto si allegrerà del suo partorire, perché molto a lungo ella ha atteso. E l'uomo franco, che avea cioncato, disse che egli immaginava ogni momento poter esser buono. E di poi prese il nappo che era gli innanzi, dappoiché non facea mestieri che niuno lo richiedesse o spronasse nel bere, e orsù, beviamo, disse egli, a nostro grande piacimento, e tracannò quanto più poté alla salute d'entrambi, dapoiché egli era gagliardo nei suoi desideri, avanti a ogni altro. E Sire Leopold, che era il miglior commensale che mai avesse seduto al desco di quei clerici, ed era l'uomo più mite e cortese che mai abbia posto man di massaro sotto cul di gallina, ed era il più leal cavaliere del mondo che mai abbia servito donna gentile, levò a lui cortesemente la coppa, doglie di donna, con meraviglia meditando. Or fa d'uopo parlare della brigata ivi raunatasi nell'intento di briacarsi ove si potesse. Eranvi di molti clerici d'ambo i lati della tavola, ciò è a dire, un nomato Dixon Junior di Santa Maria Misericorde con altri sozi suoi, Lynch e Madden, dotti nella medicina, e l'uomo franco che nomavasi Lenean, e un di Albalonga, un cotal Crotters, e Stephen, il baccelliere, che al sembiante appariva un fraticello novizio ed era a capo della tavola, e Costello, comunemente Pance Costello nomato, per una sua intrapresa di alcun tempo addietro, e di tutti loro, ove si tolga il giovine Steven, era il più briaco, che pertanto sempre più idromele chiedeva, e allato a lui il mite Sire Leopold. Essi però attendevano il giovine Malachi, dapoiché egli aveva promesso la sua venuta, e fu chi, mosso a dispetto verso di lui, disse che aveva infranto il suo voto. E Sire Leopold sedesse coloro, dapoiché egli era in stretta amistà con Sire Simon e con questo figliol suo, il giovine Stephen, e dapoiché un grande languore ivi lo avvinceva dopo i lunghi errori, tanto più che coloro gli facevano grande e onorevole festa in quell'ora. Pietà il pingeva, amor lo pungeva di peregrinare, seppure il di partirsi disdegni. Imperocché essi eran sagacissimi clerici e li udiva argomentare l'un di contro all'altro quanto a nascimenti e buon dritto, sostenendo il giovane Madden che, postosi il caso gran peccato fosse il dover la donna morire, poiché in cotal guisa era avvenuto ora alquanti anni con una femmina di Eblana, nella magione di Horn, che ormai erasi dipartita da questo mondo, e la notte stessa pria di morire, tutti i cerusici e gli apotecari tenuto consiglio sul caso. E ancora diceano che ella dovea vivere, perché in sul principio fu detto la donna dovea partorire nel dolore, e pertanto quei che partecipavano di questa immaginazione affermavano che il giovine Madden aveva detto il vero, dapoiché la coscienza lo rimordeva a lasciarla morire. E non pochi, e fra costoro il giovine Lynch, dubitavano che il mondo fosse ora assai male governato, come non mai, a benché il popolo minuto altrimenti giudicasse, ma né legge né giudici erano di rimedio. Il Signore ne scampi. Non prima ciò fu detto che tutti conclamarono ad una voce che no, per nostra Santa Madre Vergine, dovea la femmina vivere e il parvolo morire, sotto colore del che si accaloravano sulla questione, vuoi per la discussione, vuoi per il molto bere. Ma l'uomo franco Lenean era presto al versare a ciascheduno la cervogia, sicché al manco l'allegrezza non facesse difetto. Il giovine Madden scoprì allora ad ognuno tutto l'avvenuto e disse loro come che essa fosse morta e come che per amor di santa religione e per avviso di peregrino e di monaco e per un voto che aveva fatto a Sant'Alton di Arbraccan il suo buon marito non potesse rinunziare alla sua morte, sicché ne venne a tutti grande gravezza. Al che il giovine Stephen proferì le seguenti parole: Il mormorare, messeri, trovasi sovente pur tra i laici. Parvolo e madre, amendue glorificano ormai il loro fattore, l'uno nell'oscurità del limbo, l'altra nel fuoco della purgazione. Ma la Dio mercè, che dire di quelle anime da Dio possibilizzate che noi di notte in notte impossibilizziamo, che è peccato contro lo Spirito Santo, vero Iddio, Signore e datore di vita. Giacché, messeri, diss'egli, la nostra lussuria ha breve durata. Siamo solo mezzi a quelle picciole creature dentro di noi, e la natura ha fini altri dai nostri. Allora Dixon Junior disse a Pancio e Costello se sapesse quai fini si fossero. Ma egli aveva soverchiamente bevuto, e il meglio che ei poté trarne fu che egli avrebbe furato l'onore di qual si fosse donna, sposa, pulcella o druda, seppur fosse gli dato di sfogare la sua brama smodata di lascivia. Al che Crotters di Alba Longa cantò le lodi che il giovine Malachi aveva fatte del liocorno e di come una fiata ogni 1000 anni ei tragga dal suo corno godimento, essendo l'altro in quel contempo punzecchiato dai lazzi con che lo venivano berteggiando, tutti e ciascuno testimoniando per gli arnesi di San Futtino che era capace di fare qualsivoglia cosa che è nella natura dell'uomo di fare. Al che risero tutti assai giocosamente, salvo il giovine Steven e Sire Leopold, che mai solea ridere troppo apertamente, per cagione d'un singolare umore, il quale non volea tradire, e anche perché grandemente dolevasi per colei che stava partorendo, qual che ella si fusse, e in qualsivoglia loco. Indi, orgogliosamente, parlò il giovine Steven di nostra madre Chiesa, che voleva discacciarlo dal suo seno, delle leggi canoniche, di Lilith, patrona degli aborti, della pregnanza prodotta da vento di semi di splendore, o da potenze di vampiri bocca a bocca, o, come dice Virgilio, dall'influsso dell'Occidente, o dell'olezzo del fior di luna, o se essa giacciasi con femmina da poco giaciutasi col marito, effectus secuto, o per avventura dentro al bagno, secondo le opinioni di Averroè e Mosè Maimonide. Disse di poi come al termine del secondo mese infondessevisi per entro un'anima umana, e come in tutti la nostra Santa Madre includa ogni ora le anime a maggior gloria di Dio, mentre che quella terrena madre che fu solo la femmina di un bruto, atta a generare bestialmente, dovea morire per canoni, perché così dice colui che tiene il suggello del pescatore. Fin quel beato Pietro, sulla cui pietra la Santa Chiesa fu nei secoli fondata. E allora tutti i loro baccellieri chiesero a Sire Leopold se gli avria in un simile caso tanto messo a periglio la persona di lei da risicar vita per vita salvare. Un'accorta parola egli avria voluto proferire, che potesse tutti accomodare, e appressando la mano alla guancia disse, infingendo, com'era suo costume, che per quanto era conoscenza di lui, che sempre aveva vagheggiato l'arte del cerusico come può l'uomo laico, e avendo rispetto alla sua poca esperienza d'un accidente sì raramente occorsogli, era cosa buona, imperocché la madre chiesa traeva moneta sonante dalla morte e dalla nascita a un tempo, e in cotal guisa accortamente sottrassesi alle loro inchieste. E dice il vero, per Iddio, disse Dixon, e s'io ben m'appongo, pregnanti son le sue parole. Udendo ciò, il giovine Stephen molto s'allegrò e osservò che chi ruba al povero presta al Signore, poiché si trasmodava quando era briaco, e che fosse ormai in quella condizione fu tosto manifesto. Ma Sire Leopold era oltremodo grave, a malgrado del suo favellare, perciò che egli avea tuttavia pietà delle terrificanti grida stridule, donne nel loro travaglio, e rimembravasi della sua buona sposa Marion, che gli aveva generato un solo infante maschio, che al suo undecimo giorno di vita morì, e nessun esperto dell'arte poté salvare, tanto atro il destino. E forte pena avea ella sentito nel cuore per il malo caso, e per la sua seppellitura aveagli fatto un bel corsetto di lana d'agnello, il fiore del gregge, per la tema che perisse tutto e basito giacesse, poiché erasi allora alla metà del verno. E adesso Sire Leopold, che non avea erede corporale mascolo, considerava del suo amico il figlio, ed era inserrato in duolo per la passata felicità. E per grave che fossegli l'essere in difetto d'un figlio di sì gentile animo, che tutti lo avean per uomo di solide qualità, non meno gli era di scaro che il giovine Stephen vivesse crapulosamente con quei poltroni e assassinasse i suoi beni con baldracche.